Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, l'informazione europea riparte da qui. Abbiamo sentito, citato Schäuble, lo sentiremo tra un momento. Vorrei però partire invece da un servizio che fa il punto con la voce di Alessandra Schepi su quelli che sono gli aggiornamenti contenuti della nuova tornata di sanzioni dell'Unione Europea alla Russia. Come sapete, non è la prima ondata, c'è un atteggiamento prudente da parte di Bruxelles. I quotidiani europei di fatto riportano che le sanzioni entreranno pienamente in vigore solo alla fine del mese, quelli russi invece scrivono che le sanzioni entrano in vigore oggi. Insomma, anche questo fa parte di quella trattativa in corso tra Mosca e Bruxelles. Il servizio. Colpiscono banche, compagnie petrolifere, industrie di armi, rinviate di qualche giorno in attesa dei progressi della tregua in Ucraina. Le sanzioni europee contro la Russia entrano in vigore oggi, ma potranno anche essere revocate o sospese in tutto o in parte dopo un riesame del cessate il fuoco a fine mese. Dunque, da parte di Bruxelles una sorta di avvertimento, un modo per tenere alta la guardia, più che un provvedimento vero e proprio, anche se la reazione di Mosca non si è fatta attendere. Di fatto, da oggi dovrebbe diventare più complicata la vita finanziaria per le 5 banche statali russe, alle quali verrà proibito l'accesso ai finanziamenti degli istituti dei 28 paesi europei. Forte stress anche per i 3 giganti petroliferi Transneft, Rosneft e Gazprom, per i 3 maggiori produttori di armi, mentre si allunga di altri 24 nomi la lista nera per un totale di 119 di politici russi e separatisti ucraini che non potranno più entrare in Europa e che si vedranno congelare eventuali averi. Insomma, misure che vanno a colpire il cuore economico del Cremlino e alle quali si sono allineati anche gli Stati Uniti. Mosca a sua volta minaccia ritorsioni che potrebbero colpire settori dell'auto e dell'abbigliamento. Per ora nessun cenno ai tagli del gas, di cui si discuterà nel trilaterale UE-Ucraina-Russia del 20 settembre. Ma intanto Polonia e Slovacchia riferiscono che il flusso negli ultimi 2 giorni è calato del 45%. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E mentre dunque Mosca parla di risposte asimmetriche che arriveranno nelle prossime ore, l'Unione fa capo a Milano, qui a Milano, dove i vertici di fatto dell'Unione e in particolare i ministri dell'economia e delle finanze si ritrovano. Allora, gli aggiornamenti in diretta con Sergio Nava. Sì, buongiorno, subito gli ultimissimi aggiornamenti, perché l'Eurogruppo informale di questa mattina si è chiuso, è in corso proprio in questi minuti la conferenza stampa. Sta parlando il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem ha detto: siamo entrati in una nuova fase, dalla stabilità finanziaria, dalla necessità di stabilità finanziaria alla necessità di sostenere la crescita, occorrono politiche decisive da parte di tutti. La politica monetaria della BCE va sostenuta, ha detto Dijsselbloem, con più politica fiscale, maggiori riforme e maggiori investimenti. Sì, anche alla flessibilità, ha detto, ma all'interno delle regole, anche perché il consolidamento va proseguito e le riforme strutturali devono entrare, dice Dijsselbloem, in un mix di politiche. Tra le riforme strutturali che il presidente dell'Eurogruppo ha citato c'è quella del mercato del lavoro, in particolare la riduzione del carico fiscale sul lavoro, un tassello fondamentale. Come ascoltavamo poco fa, ha parlato anche il ministro delle finanze tedesco Schäuble, interessante la sua apertura proprio sul fronte investimenti. Sentiamo un passaggio del suo intervento questa mattina. Wir werden uns natürlich im Wesentlichen mit der wirtschaftlichen Lage in Europa beschäftigen. Ci occuperemo della situazione economica in Europa, dice Schäuble, sostanzialmente della creazione di condizioni migliori per gli investimenti. Ne abbiamo già parlato a giugno, ha detto: abbiamo bisogno di maggiori investimenti in Europa. Occorrono investimenti nel settore privato, in primo luogo. Il tema è come ridurre la distanza tra salari lordi e netti per gli imprenditori, in modo che le imprese possano rafforzare gli investimenti nel settore privato. La strada giusta, prosegue Schäuble, è maggiori investimenti, mantenendo ovviamente la barra ferma sul consolidamento dei bilanci, sulle riforme strutturali, su migliori condizioni istituzionali, il tutto per favorire la crescita e la creazione dei posti di lavoro. Sulla Francia, conclude il mio collega Sapin, ha tratteggiato la situazione mercoledì. Parigi farà ulteriori tagli per 21 miliardi e ne abbiamo parlato. Quando la Francia presenterà la sua finanziaria, sarà analizzata dalla Commissione, solo successivamente dal l'Eurogruppo. È vero che la Francia mancherà rientro dal deficit già quest'anno, anche di questo se ne occuperà la Commissione e in seguito anche Eurogruppo ed Ecofin, così Schäuble. E allora, Sergio Nava è ancora in collegamento con noi? Sì, ancora qui. Allora, qualche battuta conclusiva, come prosegue la giornata? La giornata prosegue tra pochi minuti con l'inizio del vertice dei ministri europei e asiatici, il cosiddetto ASEAN, e il CRU poi sarà sicuramente domani con l'Ecofin informale, quello sarà a presidenza italiana, ricordiamolo, per cui ci sarà ovviamente il tema principale sarà quello degli investimenti su cui l'Italia, ricordiamo, sta puntando molto. Grazie a Sergio Nava che continuerà a raccontarci questo fine settimana europeo a Milano. Di fatto è tutto per Europa 24 per questa settimana, l'appuntamento torna questa sera. Nel fine settimana vi segnalo un Euroreportage dedicato alla Scozia, settimana prossima un importante referendum, anche questo nel fine settimana di Radio 24. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.